l'attualità, questo discorso torna oggi particolarmente propizio, essendo oggi, come forse qualcuno di voi sa, l'8 marzo. Ecco, considera la donna in una sua oggettualità, la donna come oggetto. Considerare una persona come oggetto è abbastanza svalutante, no? Se voi siete in prevalenza ragazze, ma se il vostro ragazzo vi dice ti considero un oggetto, voi avete un quasi certamente, a meno che non siate perverse, sofisticate, che vi piaccia, come dire, da un punto di vista erotico, l'oggettualità cui lui vi riduce, ma insomma l'essere considerate come globalmente come oggetto è cosa indisponente, perché a ognuna di voi verrebbe in mente di dire, questo vale il discorso naturalmente anche per gli uomini, ma come? Ma io ho un'anima, io sono un'anima, no? Se qualche persona, il vostro partner, la vostra partner o altro amico vi dicesse tu sei le tue mani, voi avreste un po' di difficoltà dicendo sì, certo, sono anche le mie mani. Guarda, tu sei, sentite la climax, no? L'escalation, tu sei la tua bocca, ma insomma, però sì, sono anche la mia bocca. Se uno ti dicesse tu sei i tuoi fianchi, già qui abbiamo un po' un, no? Insomma, tu sei i tuoi glutei, insomma, ma i tuoi glutei sono la cosa migliore che tu abbia. Adesso rovesciamo il discorso, vediamo che la persona ti dicesse io non ti vedo, non ti considero una cosa, tu sei soltanto una e vedo te attraverso le tue parole, tu non sei un oggetto per me. Non posso altro che considerarti superbamente come un soggetto. Non puoi essere oggetto della mia attenzione. La parola oggetto è una parola molto interessante, sapete? Viene da ob iacio. Ob vuol dire davanti in latino. Iacio vuol dire getto. Iacio, iacis, ici, iactum. Piacere, gettare. Allora io vi dico che la parola oggetto può essere vista in senso svalutativo, tu sei solo un oggetto, ma può anche vista, questo essere vista, e questo è un discorso molto importante che vi faccio, devo ancora chiedere alla cortesia di quel ragazzo di chiudere completamente la porta, perché ogni tanto ci sono dei curiosi che naturalmente mi lusinga, perché forse saranno interessati a quel che si dice, ma io non sono interessato a loro, questo è il punto, bisogna essere in due ad amarsi nella vita, o no. Loro forse amano me, ma io non amo loro, è una delle forse lo sentiranno come tragedia questi ragazzi che respirano, ma io non lo sento come tragedia. Ecco, voglio dire, lo sento invece come quella che trivialmente, sentite il registro come cambia da quello elevato al quale uso a tenermi quando mi esprimo, io mi sento semplicemente come, sentite come cambia il registro, come una rottura di coglioni. Avete visto? Adesso salgo su, sono arrivato a una frase degli Bossi e adesso risaliamo su. La dimostrazione delle mie capacità retoriche, e spero che sia presa la mia discussione. L'oggetto è qualcosa di negativo, no? Io direi di un oggetto. Nessuna giovane sposina ammetterebbe che lo sposo dicesse tu per me sei semplicemente un oggetto da scopare. Per me sei semplicemente un soprammobile di questa casa. Questo anche peggio. Ti considero a tal segno oggetto che guarda, mettiamo che lo sposo si rivolga a una sposina particolarmente minuta. Guarda, ti metto qui sul comò, perché qui sul comò è il tuo posto ideale. Questo sarebbe intollerabile. adesso io vi dico che non può essere l'oggetto. L'oggetto può essere Dio. L'oggetto può essere Dio. Dio è un oggetto. Dio non è un soggetto. Dio è un oggetto. Non so se qualcuno di voi ha avuto qualche frequentazione diretta negli ultimi tempi di Dio. Lei che non l'ha avuta, non l'ha avuta. Certamente Dio fa parte del nostro immaginario. Atei o a fortiori credenti fa parte del nostro immaginario. Quindi noi siamo dei soggetti, questo non c'è alcun dubbio, che pensiamo Dio, chiaro? Quindi Dio è un oggetto. Noi poniamo davanti, o piace, poniamo davanti alla nostra mente Dio. Quindi, l'oggetto può essere qualcosa di svalutabile. Tu sei la mia sposina che metto sul comò come un soprammobile. Ma può anche essere l'oggetto più profondo del mio pensiero, del mio desiderio. Quello a cui io dedico la mia vita senza averti visto nemmeno mai in faccia. Quindi è il massimo della non prende appunti? Non prende appunti? Sto con lei. Ah, sta con lei, vedete infatti quest'aria di uno che sta con me. Dio è un particolare oggetto. È un oggetto che può essere molto alto, Dio. Cioè tutte le mancanze nostre lui non le ha. Tu sei pigro, Dio non lo è. Dio ha fatto il mondo, Tu non riesci a fare un esame all'università, non è fatto il mondo. Dio è onnisciente, tu non sai il tutto, lui sa tutto. Dio è onnipotente, la tua potenza è assai limitata. Quindi molto alto Dio può essere. L'oggetto può essere, l'oggetto Dio può essere molto alto, ma è anche molto basso perché è manipolabile. Nel senso che noi possiamo ricorrere a Dio quando vogliamo. Ci pensate? È molto più basso di oggetto di un medico, di un mio medico. Perché se io ho un problema di notte e chiamo il mio medico non risponde perché ha il telefonino staccato, il bastardo. No? Il presidente del Consiglio Monti, vediamo che adesso a me venga il desiderio di chiamare Monti, e sconvolgo e chiamo Monti. Secondo voi come va a finire questa telefonata? Non so il numero diretto del cellulare di Monti, ma vediamo che Monti mi risponda. Mi manda a diavolo istantaneamente, è ovvio, non dico, ma chi è lei? Che vuole? No, dico adesso le passo un mio amico, le passo lei, insomma, si immagina, no? Come sarebbe? Invece Dio è tascabile. È un pocket Dio. Perle di Guari. Nel senso che non rompe le scatole soverchiamente, ma nel momento in cui ho un bisogno, non trovo, ma il bisogno è minimo, non trovo le chiavi della macchina, oddio, fammi trovare le chiavi della macchina. Dico oddio, mica dico Monti, fammi trovare le chiavi. No. Dio, fammi andare il corpo! Le tragedie degli stifici! Oddio, fammi andare il corpo! Ma tu vuoi dire che... Ora capisci? Avete capito? Quindi l'oggetto può essere anche Dio visto come alto e come basso, perché è a mia disposizione quando voglio. Ci siamo? Passiamo alla donna. la donna come oggetto può quindi essere vista come Dio. Quindi avete capito che dire che la donna è oggetto non è tanto in questa prospettiva un qualcosa di svalutante, vuol dire invece che la donna può essere un tuo Dio, se preferite un idolo. Un idolo, questo è molto interessante, perché se noi poi consideriamo Madame Bovary, vediamo che qui la donna è considerata una sorta di Dio, o meglio, che non tanto la donna è considerata una sorta di Dio, che predomina l'idea dell'amore come una sorta di divinità. È chiaro il punto? Beh, abbiamo detto la donna oggetto, donna oggetto, Dio. Adesso prendiamo il ragionamento, come diremmo noi romani, per un altro pizzo. C'è qualcuno che non è romano, forse nessuno, quindi non capite cosa dico quando io dico prendiamo il ragionamento per un altro pizzo, lei lo capisce? Per un altro pizzo, se io tratto qualcuno da oggetto, lo svaluto. Siamo su un altro versante del ragionamento, lo svaluto. 8 marzo, se io dico a una ragazza che passa qui per la strada, ah, l'8 marzo, questa ragazza magari si presenta con un innocente, ingenuo, tremulo mazzolino di mimose, io direi, ma che è sta merda? Quindi una cosa di questo genere qua, e direi, tu sei solo un oggetto. La ragazza forse intimidita dal mio aspetto, ma tu dico, diciamo così, direi, guarda che capone, una cosa di questo genere qua, però non vedo più che trattare qualcuno da oggetto è degradante. Sentite l'altro piano di ragionamento. Ebbene, i due piani di ragionamento in realtà in Flaubert coesistono. Trattare una donna da oggetto può significare misoginia. Misoginia, se io dico a una ragazza qui nella piazzetta sei un oggetto, è misoginia. E allora, la doppia oggettualizzazione della donna in Flaubert, quella per cui la donna è un dio, alto o basso? Alto, lontano, basso lo posso usare poco di Dio, quando voglio. E l'altra idea per cui la donna oggetto è degradata, misoginia, coesiste. La donna è in Flaubert un dio stupido, un dio degradato, un dio stupido. Questo simbolo è particolarmente scandaloso, perché anche nelle peggiori bestemmie noi potremmo dire che Dio è malvagio, no? Ed è stato detto. Dio è crudele, è malvagio. Se noi volessimo Dio per Dio giusto, volessi insultare Dio, noi diremmo Dio è un bastardo, potremmo dire quello, ma noi non diremmo mai che Dio è stupido, mai. Questo è proprio fuori da qualunque orizzonte concepibile. C'è qualcuno che ha provato a dire, in effetti, guardando come è costruito il corpo umano all'interno di un'ottica di credente, ci sono delle cose, l'ho letto, non sono in grado di ricordarmi i dettagli, che fanno pensare che il corpo umano avrebbe potuto essere costruito con più saggezza, con più intelligenza. Ma insomma, Dio stupido è veramente il massimo dei paradossi. Quindi, seguendo il primo ragionamento abbiamo Dio, seguendo il secondo abbiamo stupido, Dio stupido, ed ecco la formulazione che io propongo per quanto riguarda Flaubert. Dio stupido, quindi lo chiameremo d'ora in poi la donna Dio trattino oca. È un Dio oca. Oca, oca è l'animale emblematicamente sciocco, stupido, no? Sei un'oca. vero? Però al tempo stesso quest'opera è Dio. E ragionandoci un po' sopra, ma non per giocarci, quanto piuttosto per cercare di capire il significato, potremmo aggiungere a chiosa, corollario di questo discorso, che solo un'opera riesce a diventare Dio. Queste frasi che riguardano la figura della donna influenzano questi concetti, sono molto significativi, molto importanti. E adesso vediamo come veniva giudicato Flaubert nel suo rapporto con le donne. Come erano le donne nel rapporto con Flaubert? Tutto questo è molto interessante perché il libro che noi ci accingiamo a leggere riguarda proprio il rapporto di Flaubert con il suo più importante personaggio femminile. Ci sono opinioni abbastanza diverse. Sartre, il grande filosofo Sartre, sosteneva che Flaubert aveva una natura femminile. Zola, uno scrittore vissuto nello stesso tempo di Flaubert, un po' più avanti nel tempo, diceva che Flaubert per le donne aveva un sentimento prevalentemente di... Le donne ritenevano Flaubert prevalentemente un amico, non sarebbe stato un grande amatore. Una cosa è abbastanza certa, che Flaubert era troppo simile a una donna per poter stare con una donna. C'è una frase che forse tutti conoscete e che gli ignoranti, che sono tantissimi, attribuiscono a Flaubert, anche nei cioccolatini, nelle cartine dei cioccolatini Perugina, e che è Madame Bovary, c'est moi. Credo che lo sa perfino il gestore del bar, Madame Bovary, c'est moi. Forse tutti sapete anche che questa frase Flaubert non l'ha mai detta. Mai detta. È un'invenzione. Eppure questa invenzione, questa frase fintamente attribuita a Flaubert, Madame Bovary, c'est moi, io sono Madame Bovary, è, nella sua falsità, una frase di straordinaria verità. Nel senso che è verissimo, lui è Madame Bovary. Con le stesse frenesie, deliri, melanconie, il rapporto tra lui e la Bovary è un rapporto empatico o empatetico, se non credo. Lui è riuscito a immedesimarsi completamente nell'animo di una donna, nel corpo di una donna, e questo rappresenta che questa è la causa del fatto che Madame Bovary sia un unicum nella storia letteraria mondiale. È la rappresentazione di una donna fatta da, per così dire, un uomo donna, un uomo rappresentare. E quindi il fatto dell'8 di marzo mi rallegra particolarmente. Rappresentare una donna per un uomo è difficilissimo e normalmente non ci riesce. L'altra grande rappresentazione che spesso vi ho citato, che si confronta con quella della Bovary, è quella di Anna Karenina, come sapete. Ma Anna Karenina è una donna raffigurata da un uomo. Qui abbiamo una donna raffigurata da quello che chiameremmo, con una punta di paradosso, un uomo donna. cosa sostiene Flaubert delle donne? Ci sono alcuni punti della corrispondenza che vorrei leggervi, per cronaca. Uno è sulla corrispondenza della Freudad, chi volesse trovare questi passi in biblioteca, uno è sul secondo volume 124. Diceva tutte le cose che gli passavano per la testa dal punto di vista intellettuale, e questo può dirlo anche perché ci sarà questo piccolo seminario fatto da questo mio assistente, di cui vi avevo già parlato, se non sbaglio, di commento di quattro lettere di questa corrispondenza meravigliosa. Scrivendo a Louis Collet nel 52, quindi siamo proprio agli inizi della stesura della Bovary, che è stata scritta tra il 51 e il 56, pubblicata poi nel volume del 57, dice questo in questa lettera a Louis Collet: se io sono, dal punto di vista del rapporto venereo, un uomo così saggio, è che sono passato molto presto attraverso una dissolutezza superiore alla mia età e apposta al fine di sapere. Questa espressione, prendetela, sottolineatela. Io mi sono occupato delle donne affaire de savoir, vedete come titolo di questa affaire de savoir. Ascoltate quello che dice. Ci sono poche donne che, con la testa almeno, io non abbia spogliato fino ai talloni. Ho scavato la carne da artista, la carne delle donne, e la conosco. Mi occupo di fare dei libri e di mettere in foia, cioè di dare in stato di eccitazione sessuale, e di mettere in foia le più fredde tra loro. Quanto all'amore, è stato il grande argomento di riflessione di tutta la mia vita. Ciò che non ho dato all'arte pura, al mestiere in se stesso, è stato lì, nella donna. E il cuore che studiavo era il mio stesso cuore. Quante volte ho sentito, nei miei momenti migliori, il freddo dello scalpello che mi entrava nella carne. Adesso vediamo un altro passo, è C1, che è 1230, questa è una lettera a un amico. Siamo assai prima, siamo nel 45, quindi Flaubert ha 24 anni. La scopata non mi insegna più niente. Il mio desiderio è troppo universale, troppo permanente, troppo intenso perché io abbia dei desideri precisi. Non mi servo delle donne. Faccio come il poeta del tuo romanzo. Parla dell'amico Alfred Flaubert. non mi servo delle donne, faccio come il poeta del tuo romanzo, le consumo con lo sguardo. C'è un passo molto interessante ed efficace, dice: la scopata non mi insegna più niente. Il mio desiderio è troppo universale perché abbia dei desideri precisi, non mi servo delle donne, faccio come il poeta del tuo romanzo, le consumo con lo sguardo. Sono delle osservazioni, questo passaggio lo indicheremo con la prima parola, la besata, la scopata, besata, la scopata. Quindi il primo lo indichiamo con affair de savoir, al fine di sapere, e questo secondo la scopata. Non mi insegna più niente, non mi insegna più niente. Ora, in una frase del genere mette un po' in dubbio, a parte il fatto che, insomma, la besata, lo diciamo in francese, perché io sono una persona estremamente unica, e quindi però sostanzialmente sono una specie di seminarista. Il fatto che non insegni più niente, voglio dire, insegna a qualunque età, se uno lo approfondisce, questo è il punto. C'è un qualcosa di vero e di indicativo. Le donne io non me ne servo, le consumo con lo sguardo. Ecco. Ora io per esempio potrei dirmi, citando come esempio un uomo della mia età, che questa frase non mi dovrebbe mettere di dire. Però certamente all'età di Flaubert sì. Perché a 24 anni uno è un ragazzo, anche allora, che però si era più grandi, anche allora. Questa è una tipica frase, come dire, che ha la ingenuità e tracotanza giovanile. Le donne le consumo con lo sguardo, uno consuma con lo sguardo una donna quando non la può accostare e allora si limita a consumarla con lo sguardo. Questa dichiarazione quindi denota che lui ha uno spirito sostanzialmente giovanile nell'accostarsi al tema della sessualità. E quando si ha uno spirito molto giovanile, sapete, una delle caratteristiche dell'età giovane, sia per l'uomo che per la donna, che l'altro sesso sembra a volte molto più importante di quello che sia nei fatti. Molto più alto, più minaccioso. Qualunque persona che si innamora pensa che la donna innamorata o l'uomo di cui la donna di cui è innamorata o l'uomo di cui è innamorata sia terribile, feroce, spaventoso, no? Possa decidere del suo destino, ma non è così, si tratta di due poveri cristi. Ricordo che, se posso citare un fratello personale, alla vostra età, no, un po' più grande di voi, insegnavo all'università, mi ero innamorato enormemente di una mia allieva che aveva poco meno della mia età, quindi aveva 25 anni, e io pensavo che questa fosse un crociuolo di terribilità e di veleni che avrebbe potuto intossicarmi, e vabbè, questa è una cosa che fa parte della... Passano degli anni, passano molti anni, e rivedo questa donna dopo 25 anni. E ci rincontriamo e così, e prendiamo tanti bei tè insieme al bar. Mi ricordo che con questi tè ci segnavano moltissimo. E lei era una donna molto intelligente e diceva: ma ti ricordi che tu pretendevi che io fossi chissà quale strega terribile? Ma io ero una povera crista e io mi sono reso conto che sì, che era così, ma anch'io ero un povero cristo che fronteggiava una povera crista, eravamo due poveri cristi. Ma nell'età giovanile si pensa che il sesso opposto sia spaventoso, che possa sbranarti la vita. Solo molto molto più avanti si capisce che le cose non stanno affatto in questo modo. Vediamo se facciamo ancora in tempo una terza citazione. Dicendovi la terza citazione, mi viene in mente una cosa fondamentale. Domani, siccome la stiamo per chiudere, cominciamo la lettura di Madame Bovary. Quindi, dovete averla tutti. Chiaro? Tutti. Vediamo questa terza citazione. Questa citazione è una lettera sempre a Poitain, Le Poitain, dello stesso periodo, cioè proprio poco dopo quella che abbiamo visto. E dice così: è strano, lo traduco, come io mi sia allontanato dalla donna. Ha sempre 24 anni, è sempre una lettera del 45. È strano come io mi sia allontanato dalla donna. Ne sono sazio, come debbono esserlo quelli che hanno troppo amato. Forse sono io che ho amato troppo. È la masturbazione che ne è la causa. Masturbazione morale, intendo. Tutto è nato da me. È rientrato in me, capisci? Tutto è uscito da me e tutto è tornato dentro di me. Sono diventato impotente per questi effluvi magnifici che ho sentito troppo rebollire per riuscire mai a riversarli in fuori. Questo è splendidamente tipico di una certa età in cui gli ormoni sono ormoni e non ormini, come succede poi nel corso dell'esistenza spesso, in cui c'è un ribollire dei sensi e tutto viene vissuto a livello paramasturbatorio in senso mentale. Queste osservazioni sulla giovanilismo di queste asserzioni, no? È molto interessante, sono molto interessanti queste asserzioni, per un motivo. Perché ancorché, attenzione ragazzi, è questo punto, ancorché lui abbia una visione sostanzialmente giovanilistica dell'amore e della donna, riesce ad avere una conoscenza della donna dal punto di vista femminile senza pari. Cioè si potrebbe pensare che poi con conoscenze così acerbe, giovanili, dicendo che quello che gli basta è consumare le donne con lo sguardo. Ecco, io pensavo appunto a me stesso, dico, ma sono cose che io pensavo quando avevo appunto 25 anni, evidentemente. E nonostante questo riesce a capire perfettamente le donne, e una cosa riesce a capire meravigliosamente dell'animo femminile: che cosa vogliono le donne? Questo è il discorso a cui ci appiglieremo domani con il prete. Le donne vogliono, dice lui in buona sostanza, cose impossibili. La mirabile caratteristica dell'animo femminile, lui dice in ammirazione profonda per la donna, è che le donne, per usare la famosa sua espressione, le donne chiedono arance ai neri. La conosceva lei questa espressione? Come la conosceva? Prego. Le donne chiedono arance ai neri. Cosa vuol dire in sostanza? Vuol dire che a un marito piatto, banale, chiedono di essere un intellettuale. Tutto questo è squisitamente umano. Ho ancora una zia che oscilla sui 215 più o meno di anni, una donna intelligentissima che sposò un cretino, bravo, ma cretino. Lei era colta, sapeva il greco benissimo, l'uomo era un uomo d'affari cretino, tra l'altro fallì sempre miseramente, quindi fu cretino anche per la canzone. Lei cercava di portarlo ai musei, cercava di fargli leggere naturalmente compatibilmente alla sua testa. E così per anni e anni, per non avere vicino un idiota, non ci riuscì. Alla fine, abbattuta, lasciò che questo cretino invecchiasse per suo conto, con un amore affettuoso, ma evidentemente quello che dice il dovere, una donna vuole un uomo da ammirare. Quello che dice il lavoro. La donna chiede una sola cosa all'uomo, non di la pesè. Pesante vuol dire quella parola che vi ho detto prima e che per timidezza non vi ripeto. Non di, ha capito di cosa sto parlando? Anche lei l'ha capito. Non di la pesì. Non vorrei soffermarmi su questa cosa troppo, forse lei non l'ha capito.